sin da bambino son condannato ad un triste rosario. La mia vita è bella anche se non posso vederla. Io non so come gli alberi siano fatti, ma la cosa più atroce è che non so come sono i miei familiari. Son condannato a sentire solo le loro voci, solo i loro abbracci. Ora sono sposato e ho un bambino, ma non so se a me somiglia o no, e non so neanche se potrà soffrire ad avere un padre che non vedrà la crescita fisica della sua adolescenza, ma finché potrò, il bene mio glielo darò e glielo dimostrerò, come ho sempre fatto e come gli altri con me. Io so della mia condizione che mi impone delle restrizioni, ma il bene che vi voglio va oltre qualsiasi barriera.